Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Bentornati per parlare delle elezioni amministrative al Comune di Bologna. Flavio Del Bono, candidato del centro-sinistra, è il nuovo sindaco di Bologna. Succede a Sergio Cofferati. Siccome i modi e i tempi richiesti per difendermi eventualmente in sede giudiziaria rischiano di avere ripercussioni negative sulla mia attività di sindaco, ho già deciso in piena coscienza che rassegnerò le dimissioni dalla mia carica. "217 giorni corrono tra il prima e il dopo, tra quel 22 giugno 2009 che sancì la vittoria di Flavio Del Bono alle elezioni comunali di Bologna e il 25 gennaio 2010 quando il sindaco annuncia le sue dimissioni. Dimissioni che tre giorni dopo, una volta approvato il bilancio, diventano effettive. In mezzo tra il prima e il dopo c'è il ciclone Cinzia Gate, ovvero l'inchiesta che ha messo sotto accusa il primo inquilino di Palazzo d'Accursio e che, sembra, possa far scoperchiare un sistema di favori e privilegi nel delicato e difficile mondo della sanità, settore che è anche uno dei fiori all'occhiello della vecchia signora rossa. Bologna, come Bari, sotto le due torri si trema alla sola idea della caduta di un altro mito. Ed eccola la Cinzia, di cui ora tutti parlano, ai tacchi alti, capelli biondi e grifo dappertutto. Cinzia Cracchi, 46 anni, ex segretaria e compagna di Flavio Del Bono. Se avessi immaginato questo, probabilmente non mi sarei mossa, ecco, nel senso che la mia è una battaglia per il mio lavoro e alla fine purtroppo è diventata un'altra cosa. Frastornata, come dice, dal ciclone che porta il suo nome, cammina veloce sotto i portici con un cellulare che squilla in continuazione. La scossa che condurrà fino a nuove elezioni non la immaginava nemmeno lei, Cinzia Cracchi, quando il suo volto divenne pubblico per la prima volta nelle parole dello sfidante di Del Bono al ballottaggio. "Ti porto i saluti di Cinzia", disse Alfredo Cazzola, adombrando irregolarità e abusi nella regione. La procura aprì un fascicolo, dapprima contro ignoti, poi convocò l'ex segretaria del sindaco e ben presto il fascicolo si arricchì di elementi sui viaggi di Del Bono con l'ex assistente, sua compagna da anni, racconteranno poi. Dalla Cina a New York, da Roma a Napoli, viaggi a spese della regione? Questa l'ipotesi dell'accusa che iscrive Del Bono nel registro degli indagati per peculato, abuso d'ufficio, truffa e poi anche per aver tentato di indurre a mentire un testimone. Nello specifico lei, Cinzia Cracchi, a sua volta indagata e che ora, quasi incredula, assiste al terremoto di Palazzo d'Accursio. E ripensa Cinzia a quel bancomat che le diede il suo compagno di allora e che è diventato il punto di partenza di un'altra inchiesta che a questo punto nessuno riesce a capire dove porti. Appaiono molto confuse perché poi ognuno scrive cose diverse e non si capisce più nulla, cioè mi rendo conto che poi leggendo solo i giornali si fa fatica. Io sono frastornata, come ho già detto ai suoi colleghi, non mi aspettavo questa cosa e sicuramente cioè, se avessi immaginato questo probabilmente non mi sarei mossa, ecco, nel senso che la mia è una battaglia per il mio lavoro e alla fine purtroppo è diventata un'altra cosa. Che cosa è diventato? Le dimissioni del sindaco di Bologna, che insomma. Cioè, se lei avesse immaginato che si sarebbe arrivate alle dimissioni. Sì, forse non lo so, forse non l'avrei fatto. Non l'avrebbe fatto? Le è dispiaciuto? Sì, sicuramente mi è dispiaciuto, umanamente mi è dispiaciuto molto, anche perché il tutto nasce da una cosa così diversa. da una sua, diciamo, istanza personale di riavere un suo posto di lavoro, questo voleva dire, oppure rispetto ai rapporti, diciamo, alla situazione? No, di riavere il mio lavoro, visto che io sono dipendente pubblica, io volevo rientrare nel mio posto, semplicemente quello. E lei pensa un po' che questa sua vicenda personale sia stata un po' strumentalizzata dalla politica? Beh, forse un pochettino sì. Si è parlato molto in questi giorni anche delle famose frasi di Cazzola che avevano sollevato la vicenda. È partito da lì. Oggi, alla luce di quello che è successo, questo come l'ha visto? Come il fatto che ci sia stato di mezzo, diciamo, quello che all'epoca era lo sfidante di Del Bono, come l'ha letto oggi? Ma guardi, io non lo so, probabilmente io credo che, insomma, Cazzola in quel momento l'abbia buttata lì senza nemmeno forse non immaginava nemmeno lui, insomma, io credo che anche Cazzola abbia agito un po' di istinto, questo mi viene da pensare, e forse neanche lui si aspettava tutto questo, io credo che comunque sia un danno per la città, ecco. Lei pensa che sia un danno? Io penso che comunque un danno sicuramente non fa bene alla città, ecco, in ogni caso. Dover cambiare un sindaco così velocemente, e chi è che secondo lei potrebbe averne benefici da questa vicenda che ha portato alle dimissioni di Del Bono? Ma guardi, io non lo so. Non lo so, io devo ancora un po' riflettere, io sono un po' lenta, quindi ho bisogno di pensarci ancora un pochino. Sinceramente sono stata bombardata, quindi non è stato uno shock anche per me, e credo che, insomma, voglio dire, io resto comunque fedele al mio partito, credo che comunque, voglio dire, ci siano brave persone indipendentemente da questa vicenda, quindi non per questo la mia idea politica cambia, ecco, non so come dire. Però, insomma, secondo lei queste dimissioni sono un terremoto tale che alla città fanno più male che bene, questo voleva dire? Forse sì, forse anche inaspettate. Ma le posso chiedere, cioè lei non immaginava che questa vicenda potesse avere un esito tale? No, non lo immaginavo perché Del Bono aveva fatto il giorno prima, aveva detto che non si sarebbe mai dimesso. Ma quando le prime volte di questa vicenda si è cominciato a parlare, non adesso, insomma, vicenda stava andando verso l'archiviazione. E quindi voglio dire, il tutto si era riaperto nel giro di a dicembre, lui indagato, io indagata, e non pensavo, insomma, che nel giro di così pochi giorni, 20 giorni, potesse succedere questo, ecco. Adesso a lei si sente nel tormentone, si sente un po' additata in città come la responsabile di questo terremoto? Ma questo, guardi, no, non lo sento, anche perché poi, voglio dire, la gente è intelligente e non sono certo io che ho deciso la dimissione del sindaco, non sono certo io che ha, cioè, probabilmente, voglio dire, c'è un apparato politico dietro e avranno pensato questa cosa, non credo di avere un potere così forte, insomma, sarebbe, no, ridicolo solo pensarlo. Si parla di questi anche viaggi che voi avreste fatto insieme, anche di tutti questi, diciamo, rapporti finanziari che vi legavano, oltre a quelli affettivi. Ma rapporti finanziari, io tutti questi rapporti finanziari sicuramente io non li vedo, mi scusi, sa? Ma io non li vedo tutti questi rapporti finanziari. Questa storia del banco, matto dei soldi che le venivano dati. No, ho capito, io mi stavo separando, stavo con lui da un po' di anni e lui aveva deciso di darmi una mano. Cioè non vedo come con 700 euro al mese, ecco, non per fare shopping, ma perché io per riuscire ad andare avanti un pochino meglio, quindi... Il rapporto finanziario, non so. Quindi non c'è... Io prima avevo mio marito, metteva lì lo stipendio, se mi ha parlato di rapporto finanziario del bono, mi dava una mano in questa così. Quindi lei si sente di dire che non c'è assolutamente da parte di Del Bono alcun tipo, diciamo così, di utilizzo poco chiaro dei soldi? Guardi, io non lo so, per me quel bancomat era di Del Bono e poi è venuto fuori che non è così. Io non lo sapevo. Lei non sapeva chi fosse intestato quel conto? Io non lo sapevo. Quel bancomat mi è stato dato da Del Bono, sopra non c'era il nome. E per me era di Del Bono, io non mettevo in discussione, non l'ho mai fatto. Quindi non si sarebbe aspettata tutti questi vari passaggi, il conto di Divani, la storia che un c'era? Un altro bancomat, no. Ma lei sapeva anche di questa acquisto a Malta della multiproprietà? No, assolutamente, sono tutte cose che io imparo adesso. Assolutamente no. Tutte novità che lei non sapeva e di cui Del Bono non le aveva mai parlato. Assolutamente. Quando è finita, diciamo, la vostra relazione, il suo impiego all'interno della regione, come è cambiato? Lei prima... Ma sa, io sono stata mandata via dalla regione subito, 10 giorni dopo. E lei che tipo di contratto aveva in regione? No, io sono dipendente. Non ho un contratto, io sono dipendente pubblica dal 92. E quindi l'hanno spostata in altro ufficio? Non è che mi hanno spostato, lui mi ha spostata in una società a partecipazione pubblica, ma di fatto privato, perché CUP 2000 è un SPA. E questo l'ha fatto proprio perché... Ma sai, io ero 20 anni che facevo segreteria politica, sono andata a lavorare in un centro di unificazione dove fanno cose sanitarie, e io non... E lei in questo momento, quindi, cos'è? Che tipo di strada pensa di percorrere? In quale posto vorrebbe tornare a lavorare? Io nel mio posto, il lavoro che ho sempre fatto. Quindi nella segreteria politica della regione? Sì, o comunque, comunque di un ente pubblico. Cioè, io vorrei avere l'opportunità di rifare il mio lavoro. Flavio Del Bono si difende e dice: sono pulito e non ricattabile, ho solo commesso la leggerezza di unire vita privata e quella professionale. Ma partita dai viaggi dell'ex sindaco con la sua ex compagna, l'inchiesta si è spostata verso una società, la CUP 2000, dove ora lavora la Cracchi, e sugli appalti all'azienda di Mirko Divani, amico del sindaco e intestatario di quel conto a cui faceva riferimento il bancomat dato da Del Bono a Cinzia. Storielle. Storiacce. Che cosa avrei dovuto fare? Cioè, sulla base di un chiacchiericcio di una signora delusa perché l'avevo lasciata, che ho sempre aiutato economicamente, perché questo è il filo conduttore dall'inizio, e che ho continuato ad aiutare in tutti gli anni, perché vorrei ricordare che i capi di imputazione che mi riguardano, sia quelli formali che le altre cose, hanno in comune una cosa, cioè i soldi per questa signora. La chiama la sua peggiore leggerezza, Flavio Del Bono, aver unito vita privata e professionale. In sostanza, aver iniziato una relazione con quella che era la sua segretaria e che è diventata la sua grande accusatrice. C'è un accanimento, un rigore che ha un po' sorpreso. La leggerezza è stata quella di avvicinare vita personale a vita amministrativa, non in mente dei nodi di altri. Dopo le dimissioni da primo cittadino si difende in TV dalle telecamere di 8:30 l'ex sindaco di Bologna, travolto dal Cinzia Gate e dalle accuse per peculato, truffa, abuso d'ufficio e ora anche per aver tentato di convincere la testimone a mentire. Viaggi con la compagna di allora a spese della regione? Io ho messo soltanto un errore tra me e la mia segreteria, in base alla quale mi venne riconosciuta una diaria per una missione che non ho fatto. di 400 e rotti euro. E dove euro. Però poi era andato in vacanza. No, semplicemente io ero in vacanza, ma per un errore venni registrato come se fossi in missione e quindi mi venne riconosciuta mesi dopo una diaria, quindi non me ne sono neanche accorto, me ne sono accorto quando me l'hanno contestato in 480 euro. Adesso. Quindi credo poi la buona fede bisogna come dire a volte fidarsi. Non c'è dubbio che l'atto formale era diciamo scorretto, quindi capisco che la procura mi imputi di truffa, però di questo stiamo parlando. Solo un errore formale, nient'altro, e per un importo ridotto di nemmeno 500 euro. Questo ha detto Flavio Del Bono anche ai magistrati quando lo hanno interrogato e gli hanno chiesto spiegazioni su quel bancomat in uso a Cinzia Cracchi, collegato però ad un conto di una terza persona, Mirko Divani, amico dell'ex sindaco. Sotto la lente della procura finiscono così anche gli appalti che la CUP 2000, la società dove Cinzia Cracchi ora è stata mandata a lavorare, ha negli anni affidato all'azienda dello stesso Divani. Due lunghi interrogatori negli uffici giudiziari anche per il direttore generale della CUP 2000, Mauro Moruzzi, che così sul suo blog definisce la sua azienda. Una delle grandi reti tecno-sociali della sanità, scrive, che ci permettono di usare internet e la comunicazione elettronica per migliorare i rapporti con i servizi pubblici. È da qui, da questi ultimi tasselli, aggiunti al puzzle di un'inchiesta che solo un paio di mesi fa sembrava invece procedere verso l'archiviazione, che ora nasce il timore sotto le due torri che quel vaso scoperto possa essere ben più grosso e che l'indagine partita sulle note spese del sindaco possa in realtà sfociare in un ginepraio capace di scompaginare uno dei fiori all'occhiello delle amministrazioni bolognesi, la sanità. Nei giornali locali e nella procura sono arrivate già lettere anonime che denunciano favori e privilegi interni al Mare Magnum della sanità, qualcosa di ben più grosso dunque rispetto a quello che denunciava l'estate scorsa Cinzia Cracchi nel momento in cui ha cominciato a smuovere le acque puntando il dito contro il sindaco, il suo ex compagno. Se avessi immaginato questo probabilmente no. Non mi sarei mossa, ecco, nel senso che la mia era una battaglia per il mio lavoro e alla fine purtroppo è diventata un'altra cosa. Se avessi immaginato le conseguenze non l'avrei fatto, dice ora Cinzia, due giorni dopo la nostra prima chiacchierata, quando, come da accordi, l'abbiamo richiamata. Cinzia Cracchi, 46 anni, l'ex segretaria ed ex compagna di Flavio Del Bono, ha sempre gli stessi capelli biondi e gli stessi abiti griffati, ma è cambiata e come spaventata. Risponde gentile, ma le sue parole ormai si limitano a prudenti considerazioni. Dice di non avere neanche voluto vedere l'intervista di Del Bono in TV e glissa ogni domanda che abbia a che fare con i nuovi orizzonti dell'inchiesta. Ora voglio staccare il telefono, dice, prima di entrare in un canile per regalare un cucciolo alla figlia. Questo terremoto che ci sia stato a Bologna, che effetto abbia avuto anche sulla sua vita, sul suo lavoro e anche per la sua battaglia che sta facendo per riavere il suo originario posto di lavoro? È ancora prematuro, ora non si può dire nulla, insomma. Non azzardo previsioni di nessun tipo. Però immagino che per lei il clima all'interno anche dell'ufficio, insomma, non sia proprio dei migliori e... No, il clima è come sempre. Lei ha seguito anche l'intervista fatta dal sindaco anche in TV qualche giorno fa? No, non l'ho vista. Non gliel'hanno neanche raccontata? Non ho voluto sapere. Perché in questo momento non vuole sentir parlare di lui? No, perché in questo momento... Cioè, non credo che sia inopportuno dire qualsiasi cosa. C'è un'inchiesta in corso, i magistrati fanno il loro lavoro, i processi vanno fatti nelle sedi giuste, non per televisione, per radio, insomma. No, certo, quello sui giornali. No, quello sicuramente. Ecco, però ormai si è già detto tutto. Anche di questa presenza di Divani, lo conosceva? Non lo conosco io, Divano. Divani non lo conosco. Conosciuto al CUP. Ah, l'ha conosciuto al CUP, quindi non sa assolutamente chi sia, né sapeva che era no. un amico così no. così stretto del sindaco. Certo, e guardi, io non è una giornata che volevo dedicare ad altro. Ma lei ci riesce in questi giorni a dedicarsi ad altro oppure in città? Fatica, ci provo. Faccio fatica, ma ci provo. E quando gira per la città, ha avuto in qualche modo la percezione che qualcosa sia cambiato anche per lei, non so, di persone che le chiedono, si fermano con lei? Guardi, io esco di casa molto presto e quindi c'è ancora poca gente in giro, la sera vado a casa, quindi valgo poco per la città. Cerca di evitarlo. Le posso chiedere una cosa? No, non cerco di evitarlo, semplicemente la mia vita è questa. Lei ci ha spiegato che il suo ex appunto compagno, il sindaco, la stava aiutando con le spese legali per la separazione, giusto? E infatti la devo ancora pagare la separazione. Lei mi diceva era una storia d'amore, poi lei che rivoleva il suo posto di lavoro e adesso è finita diversamente. Ecco, tutto questo a lei che effetto fa? L'effetto che farebbe a qualsiasi altra donna, io non sono diversa dalle altre. A lei che effetto farebbe? Mi sentirei mortificata, mi sentirei... Ecco, per me è uguale. Quando questa vicenda è cominciata a venire fuori, lei ha già detto che il sindaco l'aveva reincontrato. No, di questa cosa non parlo, è tutto in magistratura. Il sindaco che ha detto che la sua è stata la peggiore leggerezza, quella di aver unito la vita... L'ha fatta lui, non l'ho fatta io, quindi risponde lui a questa domanda. La leggerezza l'ha fatta lui. Però lei ne sta pagando le conseguenze del fatto di essere stata spostata da quell'ufficio verso un altro ufficio? Mi pare di sì. Ed è questo quello che a lei sta a cuore? Io sempre parlo, cioè guardi, tutta questa vicenda penosa nasce semplicemente dal fatto che io rivolevo il mio lavoro e basta. Quindi nasce tutto da qui, non c'è altro. Ma che io sapevo e non c'è altro da aggiungere. Ma secondo lei questa vicenda potrebbe essere il via di un'inchiesta più grossa? Questo non lo so, questo non lo so, questo lo imparo anch'io dai giornali.